A bordo campo di Dario Ricci. I sincerely apologize to Maya for what I did on the podium yesterday after the race, because it was wrong of me, and I don't thinking when I was up on the podium. Si può ben dire che Galeotto fu il pizzicotto a questo punto, perché lo sentite in sottofondo, la voce è quella di Peter Sagan, fortissimo slovacco del ciclismo mondiale, grande protagonista delle corse a tappe, e che è stato però protagonista anche di un episodio che ha fatto discutere, perché lo ricorderete, Giro delle Fiandre, arrivo, vince Cancellara, batte proprio Sagan sul podio, c'è una miss come d'abitudine che bacia lo svizzero vincitore, Sagan un po' perché è il solito guascone, un po' perché forse non si rende conto di quello che sta facendo, approfitta del lato B della miss e lo palpa in modo scherzoso, ma sicuramente Maya Leije, la 25enne belga che si è trovata in quella situazione, ha avuto di che da ridire, tant'è che poi lo slovacco, come avete sentito, ha chiesto scusa nel giro di poche ore. Beh, insomma, un pretesto buono questo gesto di Sagan per parlare invece del ciclismo al femminile, che di problemi e ben più seri ne ha, e allora lo facciamo oggi a bordo campo con una grande campionessa del nostro ciclismo in rosa, Noemi Cantele. Beh, insomma, per dire tutto il palmarès di Noemi non basterebbe la puntata. Sintetizzo e dico solo che ci sono un argento e un bronzo mondiale a cronometro in linea ai mondiali di Mendrisio 2009 e poi tante altre grandissime vittorie. Benvenuta, Noemi. Grazie, grazie a tutti. Beh, Noemi, dici un po' subito, da donna prima e poi da corridrice, che effetto ti ha fatto questo Sagan così in fuorigioco, no? Ma un po', vabbè, logicamente fuori luogo, nel senso che come tutti penso abbiano pensato, poi sicuramente in questo momento è uno degli atleti nel ciclismo che ha più visibilità, che ha più seguito anche, e anche se è molto giovane non giustifica sicuramente il gesto che ha fatto. Ha 23 anni, non è poi così giovane, nel senso, potrei capire magari un 17enne o 18enne, però è già una persona adulta, e sapendo che milioni di persone ti stanno guardando in quel momento, ti stanno fotografando, bisogna rendersi conto di quello che si fa, che quello che si sta facendo, ecco. Subito richiamato all'ordine, giustamente, lo slovacco che ha promesso di non riprovarci mai più, e quindi speriamo che la cosa sia finita qua. Senti, però voi nelle gare, scherziamoci un attimo, voi nelle gare femminili avete, se loro hanno le miss, voi avete i mister da baciare? No. Raramente è capitato, ecco. Questo non va bene, è una discriminazione. Io mi candido, se serve fatemi sapere le tappe del Giro d'Italia. Beh, Noemi, al di là delle mie improvvide candidature, l'occasione però è importante per discutere anche un po' del maschilismo, del macismo in uno sport che da sempre, forse tradizionalmente, è stato visto come, ed è visto come, lo sport degli uomini, e che forse ancor più di altri fa fatica a dare il giusto spazio, il giusto risalto alle imprese, alle prove, alle vittorie o quantomeno all'impegno agonistico di voi donne, no? O sbaglio? Sì, forse era più bello vedere magari nelle pagine dei giornali la foto del podio femminile, che noi abbiamo corso la stessa gara, siamo arrivate tipo un'ora prima della corsa degli uomini, come al solito c'è stato pochissimo riscontro mediatico. Solitamente facevano podio femminile e quello maschile insieme, quest'anno non l'hanno neanche fatto, poi si è dato più risalto a questa bravata, perché alla fine forse fa più notizia quello, non lo so, però alla fine nella nostra corsa, vabbè, ha vinto ancora una volta la Voss, ma quarto posto c'era un'italiana, una una giovane italiana che ha appena vinto una prova di Coppa del Mondo e forse non fa ancora abbastanza notizia questi nostri risultati. Alla fine, a livello come italiani, alle Fiandre è stata una donna che ha portato il risultato migliore. Beh, veramente paradossale questa cosa. Ti confesso che io neanche lo sapevo che c'era il Fiandre femminile. Lo apprendo da te, ecco. Quindi, tanto per capirci. Ah, guarda, cioè, sono 10 anni che lo facciamo. Ecco. E abbiamo fatto i 9 muri, abbiamo fatto il vecchio Quaremon. Abbiamo fatto i tratti in pavé, perciò nel senso una corsa di altissimo livello, sono 130 certo. chilometri praticamente nelle stesse strade. Per fortuna il pubblico di strada ci sostiene, però chi è al di fuori del ciclismo non lo sa neanche, che abbiamo corso quella gara. Tra l'altro è solamente un episodio emblematico, direi almeno i 2 episodi ben raccontano lo stato dell'arte in un contesto in cui, e tu in questo campo sei in prima fila, da anni viene denunciato il fatto che mancano strutture, mancano fondi, manca regolarità nei pagamenti, mancano una solidità dei club che garantiscano l'attività femminile. Ecco, volendo fare sinteticamente un ordine dei 3 punti, le 3 carenze principali del vostro movimento, quali sono quelle che da anni ormai tu denunci? Principalmente il fatto che siamo dilettanti per svolgere questo sport a livello in cui lo svolgiamo, cioè partecipando alle Olimpiadi, facendo i mondiali, bisogna farlo come professione per essere a quel livello. Perciò non abbiamo una tutela della nostra attività, perciò non abbiamo un minimo contrattuale, i contratti che abbiamo sono per la maggior parte dei casi non sufficienti, cioè nel senso, se non hai il sostegno della famiglia, non puoi fare questa attività. Noemi, per capirci, un atleta di vertice come te ci vive di ciclismo, quanto riesci, per farci capire, in un ordine di grandezza, ma a portare a casa in una stagione? Per un atleta di d'alto livello si riesce a vivere l'anno che fai, nel senso, però per nel senso, tutto il resto del mondo del ciclismo, perché non c'è solo l'alto livello, perché per migliorare un mondo bisogna guardare anche il resto, no? Certo. E ci sono atleti che prendono 400 euro al mese e devi rinunciare a fare altre attività, perché non puoi lavorare e fare non so, andare via per 10 giorni perché devi fare il Giro d'Italia, non trovi neanche un lavoro. Certo. E dunque la soluzione è, per molte atlete, entrare nei corpi, però per quegli atlete che non possono, perché non hanno magari i risultati per entrare nei corpi armati e avere perciò uno stipendio che ti garantisce almeno una sicurezza, una tranquillità, e anche quello ti dà una tranquillità, il fatto di economicamente essere in grado di sostenerti e anche pensare a un futuro. Dal punto di vista economico il rapporto è 1-20, cioè, sono maschile, sì, sarebbe bello a essere equiparate ad uomini, sappiamo che non è possibile perché gli interessi economici sono diversi, però quello che stiamo cercando di portare avanti è almeno avere delle condizioni decenti. Il fatto che noi portiamo i risultati per avere visibilità e ancora una volta non sappiamo più cosa fare, nel senso, per avere attenzione e un riscontro degno di quello che stiamo facendo. Se questo è lo stato dell'arte, qual è almeno il punto principale su cui state lavorando come sindacato di atlete? Perché so che vi siete costituite ormai da tempo come sindacato di atlete e state muovendo delle rivendicazioni presso la Federciclo, presso i vari enti di riferimento, insomma. Sì, quello che sicuramente è da un anno che facciamo parte dell'associazione della CCP, che era un'associazione che prima riuniva solamente i corridori uomini, e poi appunto perché noi abbiamo iniziato a parlare, a fare voce grossa in gruppo, così ci hanno inglobato nell'associazione e ci stanno aiutando per cercare di comunicare sempre di più con la federazione, che sta accogliendo le nostre richieste, nel senso di tutto di iniziare un dialogo, perché alla fine uno si può lamentare, rimanere nel suo giardino, se si vuol dire, però quando inizia a uscire, a parlare e a fare voce grossa, qualcuno poi inizia ad ascoltarti, ed è solo un anno che stiamo iniziando questa cosa, e l'unica cosa di cui noi facciamo ci stiamo facendo forza è il gruppo, che siamo un gruppo molto unito, proprio le ragazze italiane. Infatti adesso, la settimana scorsa, ci siamo trovate proprio con il presidente Renato Di Rocco, il presidente della federazione, certo, prima della Coppa del Mondo di Cittiglio, che tra l'altro è stata vinta da un'italiana. E vabbè, le richieste principali è quello di, soprattutto, il minimo salariale, delle assistenze assicurative migliori, visto l'attività che noi facciamo, e poi di cercare di aiutarci dal punto di vista mediatico a dare ancora più riscontro a quello cui stiamo facendo, cercando magari concomitanza di eventi anche in Italia con gli uomini. Questa cosa sta già accadendo all'estero, come è successo l'altro ieri al Giro delle Fiandre. C'è stato un passaggio televisivo però solo in Belgio. Il problema è che dobbiamo portare anche che qua addirittura per vedere il Fiandre abbiamo dovuto fare carte false, insomma. Vabbè, ma quello è il problema della televisione, diciamo. Sì, però come, nel senso, un po' sulla scia di altri sport come il tennis, il nuoto, l'atletica, che cos'è che fa da attenzione? Il fatto che la prova, i 100 metri nell'atletica, che li vinca un uomo, che li vinca una donna, ha lo stesso risalto, perché è il gesto atletico. E la stessa cosa, magari creando degli eventi ad hoc che siano magari in concomitanza, che magari forse anche i giornalisti della televisione si accorga di noi. Beh, allora, cara Noemi, mi sembra che da pedalare ce ne sia ancora molto, sì, ma che molto. Almeno state facendo un chilometro lanciato, e forse ancora di più, perché siete partite con il piede giusto. Toglimi una curiosità, ma fate pure la Roubaix? No, però facciamo, per dire, fra 2 settimane faremo la Freccia Vallone. Ah, benissimo, allora l'impegno che prendiamo qui a Radio 24 è che nel notiziario del lunedì mattina ci sarà anche il risultato della Freccia Vallone femminile, eh? Però a quel punto la devi vincere tu, speriamo. Noemi Cantere, intanto grazie di essere stata nostra ospite qui a Radio 24 e a Bordo Campo. Grazie a voi. In bocca al lupo sia per la stagione agonistica, sia soprattutto per questa lunga pedalata, forse ancora più importante di qualsiasi vittoria. Grazie per l'attenzione. A Bordo Campo. Le prodezze di Leo Messi e Cristiano Ronaldo sono tornate in TV. Beh, lo sapete, la Liga Spagnola quest'anno è stato il grande rimpianto degli abbonati alle varie pay TV, alle varie card televisive, perché costi esorbitanti a inizio campionato, intorno ai 10 milioni di euro per l'intera stagione, e Sky, Mediaset e altri competitor si sono chiamati fuori. Ma dalla scorsa settimana Barcellona, Real Madrid e tutto il campionato spagnolo sono tornati nel video nel modo in cui meno ce l'aspettavamo, cioè in forma gratuita sul digitale terrestre, colpaccio messo a segno da Publisher, la concessionaria televisiva di un gruppo di televisioni locali, che ha fatto appunto questa acquisizione, e ora fino alla fine del campionato la Liga ce la potremo vedere sul digitale terrestre. Bel colpo che commentiamo con l'amministratore delegato di Publisher, oggi nostro ospite qui a Radio 24 e a Bordo Campo, Matteo Sordo. Benvenuto, dottor Sordo. Buongiorno a tutti. Beh, allora ci tolga subito una curiosità: com'è andata il primo fine settimana di trasmissione? Avete già dei dati d'ascolto? Allora siamo partiti in fretta e furia, no? Perché l'accordo è stato chiuso mercoledì sera, ok? Mercoledì sera alle 21. Quindi non abbiamo potuto promuoverlo più di tanto. Detto questo, gli ascolti della prima giornata per noi sono stati soddisfacenti. Adesso ovviamente dobbiamo lavorare per cercare di portare a conoscenza di tutti che questo prodotto è visibile sulle nostre televisioni. Poi la difficoltà è data dal fatto che non abbiamo un numero unico di telecomando, e quindi non è semplice comunicarlo a livello nazionale in modo unitario, perché a seconda della regione siamo su un emittente piuttosto che su un'altra, e su un canale piuttosto che su un altro. Sì, per esempio Campania, Napoli, Napoli Canale 21, in Lombardia Tele Lombardia ed Antenna 3, nel Lazio Roma 1, in Puglia Tele 2 e Telenorba, eccetera eccetera. Tra l'altro lei entra subito nel vivo della discussione, perché questo è uno dei grandi problemi del digitale terrestre, diciamolo francamente. Io appartengo a un'altra parrocchia televisiva, ma ogni volta che mi imbatto nel digitale per trovare quei canali, con mio padre che pure appassionato di calcio e che c'ha il digitale terrestre, poverino, arriva di solito intorno al 70esimo a vedere la partita che gli piace. Sì, noi abbiamo la fortuna di essere tra il 10 e il 19, non nelle singole regioni, però comunque purtroppo non abbiamo un canale unitario e quindi questo in questo momento ci sta penalizzando, ma stiamo lavorando anche su quel fronte. Ecco, come siete arrivati a questo colpo? Perché insomma avevamo visto Sky ha impegnato molto ad esempio sui motori, ha creato un canale ad hoc, la Formula 1, il prossimo anno la MotoGP. Quando la Liga ha sparato 10 milioni di euro a stagione hanno detto arrivederci e grazie. Quando abbiamo capito che Sky non era più interessata al prodotto, allora a quel punto ci siamo infilati prima di Barcellona Reale, in realtà. Soltanto che la cifra era troppo alta e quindi non abbiamo mollato e siamo andati avanti. Dopo due settimane l'abbiamo chiusa, quindi abbiamo avuto un colpo di fortuna che fossero in quel momento non contesi da nessun altro, e nel frattempo penso che sia anche per loro un gioco positivo farlo girare comunque su altre televisioni, perché l'asta per l'anno prossimo sarà sicuramente più feroce, e quindi diciamo che era di soddisfazione per tutti e due. Ecco, c'è pure chi dice che però insomma alla fine col campionato già deciso di fatto nelle mani del Barcellona eccetera eccetera vi siete comprati un pacco d'amichevoli. Ma questo è stato il punto su cui noi abbiamo insistito molto. È chiaro che abbiamo rischiato, abbiamo comprato una cosa sicuramente molto onerosa per noi e per quello che per le nostre dimensioni, però è anche vero che il pubblico, diciamo il pubblico free, non il pubblico pay di Sky o di Mediaset Premium, comunque queste partite non le ha mai viste, quindi è una novità assoluta. Infatti abbiamo avuto dei riscontri la prima giornata, benché molto diversi da regione a regione, però in alcuni casi estremamente, estremamente interessanti. Ecco, chi è che si è appassionato di più? Il dato più impressionante ci viene dalla Campania. Campania abbiamo avuto un riscontro impressionante. Ma così come in altre regioni, la Campania è proprio impressionante, così altre regioni evidentemente anche localmente magari i singoli editori hanno avuto più possibilità di comunicarlo, sono stati più capaci di rendere edotta la popolazione di quello che era l'acquisto. C'è un'Italia che è differente anche da TV a TV, no? Ci sono diciamo circa 5 milioni di abbonati Sky che fanno una vita televisiva quasi tutta loro, perché noi siamo abituati ormai ai canali rullo, alle partite proposte in tutte le ore, quindi le spizzichiamo, magari nel pomeriggio ne vediamo un quarto d'ora, la mattina mezz'ora eccetera eccetera. Ma quello che questo colpo mi ha fatto venire in mente e mi ha ricordato è che c'è una bella fetta d'Italia che Messi l'ultima volta che l'ha visto al di là della Champions era quando c'aveva 18 anni. E beh, è stato il punto su cui abbiamo giocato noi, perché ha ragione che il campionato è già deciso, però c'è una competizione per la Champions, per l'ingresso in Champions, che è comunque molto accesa. L'Atletico Madrid e il Real Madrid sono attaccati, in più queste squadre sono gonfie di campioni e sembra di vedere gli Harlem Globetrotters tutte le volte, quindi il prodotto calcistico è molto interessante a prescindere da quello che è il risultato finale. E infatti le prime partite sono state tutte molto effervescenti, perché tutte con un sacco di gol, ha segnato Messi, Ronaldo, eccetera. E quindi è chiaro che per noi, per il nostro pubblico, è un evento, perché a parte la Champions League e l'Italia quando gioca, le partite in diretta non si vedono. Insomma, facciamo anche qualche nome dei telecronisti che avete coinvolto: l'ex Rai Carlo Onesti, forse la voce più conosciuta, poi Gianluca Rossi, per quanto riguarda Tele Lombardia, l'amico Cristiano Ruiu. Abbiamo cercato di rendere il prodotto il più simile a quella che è la nostra capacità di gestire i prodotti sportivi, no? E quindi le nostre voci, quelle che sono più conosciute da parte del nostro pubblico, e cercando di metterle anche in chiave abbastanza divertente. Poi l'avete buttata molto sul mercato, praticamente avete detto che tutte le squadre italiane vogliono comprarsi tutti i giocatori della Liga. Per forza. Dovevamo giocare anche queste carte. Quindi, che valore ha questa acquisizione, mi faccio essere un po' enfatico, cioè nella storia della TV sportiva italiana? Ma, non ne ho la più pallida idea. Quello che noi stiamo cercando di fare è di andare a catturare le opportunità che via via si presentano sul mercato. Il mercato è diventato estremamente frammentato, estremamente difficile, però l'anno scorso abbiamo fatto Santoro, che mai nella vita si poteva pensare che finisse sul network di televisione locale. Adesso abbiamo preso la Liga Spagnola, insomma non ci vogliamo fermare, con attenzione, ovviamente non abbiamo le disponibilità economiche che hanno gli altri, però qualcosa si riesce a fare. So che non me lo dirà mai, ma sportivamente parlando, quale potrebbe essere il prossimo obiettivo appetibile? No, non posso, non ne ho la più pallida idea, però stiamo attenti a capire se succede qualcosa, se si liberano altre occasioni simili. Ci sono diverse cose, queste televisioni un tempo hanno fatto anche un turno dell'Inter di Coppa UEFA dei tempi, facendo un risultato di ascolto pazzesco. E allora, Matteo Sordo, amministratore delegato di Publishare, complimenti per questo colpo. Al prossimo, le do appuntamento al prossimo, mi lasci chiudere con una curiosità. Lei ti fa Real Madrid o Barcellona a questo punto? Ma guardi, io non tifo né uno né l'altro, perché Barcellona ci ha buttato fuori col Milan e Real Madrid è trainato da Mourinho, quindi secondo lei quindi come Atletico Madrid. Massima neutralità e tutto il tifo sui colchoneros. Grazie, complimenti ancora a Matteo Sordo. A presto, a ritrovarla, grazie. Qui a Bordocampo. Grazie, arrivederci. Per A Bordocampo di oggi è tutto, un grazie a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, scriverci alla mail abbordocampo@radio24.it e dialogare con noi sempre attraverso il web con il blog di A Bordocampo. L'appuntamento come sempre per domenica prossima alle 14.30 e il sabato mattina in replica alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.